Il terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Della signora Hawkins, Emma non aveva una grande opinione. Per Elton senza dubbio andava a meraviglia ed era raffinata quanto bastava per Highbury e appena quel tanto avvenente da sembrare forse brutta accanto ad Harriet. Quanto a legami di parentela, qui Emma dormiva su due guanciali. Persuasa che dopo tutte le sue conclamate pretese e il disprezzo per Harriet, Elton non avesse fatto un bel nulla. Su questo punto la verità sembrava facile da stabilire. Che cosa fosse Miss Hawkins rimaneva incerto, ma chi fosse lo si poteva probabilmente scoprire. E a parte le 10.000 sterline, non sembrava affatto superiore ad Harriet. Non recava nome, né sangue, né parentela. Era la minore delle due figlie di un mercante, così naturalmente lo si doveva chiamare, di Bristol. Ma poiché i profitti della sua vita d'affari sembravano tutti insieme molto modesti, non era azzardato supporre che altrettanto modesta fosse stata la dignità del suo commercio. Era solita passare a Bath parte dell'inverno, ma a sua residenza era Bristol, anzi il cuore di Bristol, giacché, sebbene padre e madre le fossero morti qualche anno prima, rimaneva uno zio che lavorava nel campo della giurisprudenza. Nulla di più onorevole del fatto d'essere nel ramo legale si azzardava intorno a lui e in casa sua la ragazza era vissuta. Emma se lo figurava un po' come il tirapiedi di un avvocato, troppo stupido per salir di grado. E tutto il luccichio della parentela sembrava legato alla sorella maggiore, sposata molto bene a un gentiluomo di mezzi cospicui che abitava nei paraggi di Bristol e teneva due carrozze. Questo il punto d'arrivo di tutta la vicenda. Questa la gloria di Miss Hawkins. Oh, poter trasmettere ad Harriet i sentimenti che tutto ciò le suggeriva. A forza di parole l'aveva spinta a innamorarsi. Non altrettanto facile era, ahimè, disamorarla. Non bastavano parole a disperdere l'incanto di un oggetto atto a colmare i molti vuoti della mente di Harriet. Poteva essere sostituito da un altro, lo sarebbe stato di certo. Di nulla poteva essere più sicura. Perfino un Robert Martin avrebbe risposto allo scopo, ma null'altro temeva l'avrebbe guarita. Harriet era di quelle ragazze che una volta preso l'avvio non finiscono mai di innamorarsi. Se fosse stato un divertimento lecito, se negli alti e bassi dell'animo di Harriet non ci fosse stata sofferenza per lei o ragione di rimprovero per Emma, questa se ne sarebbe divertita. A volte predominava il reverendo Elton, a volte i Martin. Utile quello per dar scacco a questi e viceversa. Il fidanzamento di Elton era servito di medicina all'agitazione dell'incontro con Martin. L'infelicità prodotta dalla notizia di questo fidanzamento era stata in parte assopita dalla visita fatta da Elizabeth Martin pochi giorni dopo alla signora Goddard. Harriet non era in casa, ma un biglietto in uno stile fatto per commuovere era stato preparato e lasciato per lei, una punta appena di rimprovero mista a molta gentilezza. E fino al momento che era ricomparso il signor Elton, lei ne era stata tutta presa, pensando e ripensando come ricambiarlo e struggendosi dal desiderio di far più di quanto osasse confessare. Ma il reverendo Elton in persona aveva messo in fuga quelle ambasce. Finché rimase, i Martin furono dimenticati. E la stessa mattina della sua partenza per Bath, Emma, per dissipare un po' del turbamento così prodotto, ritenne opportuno che Harriet ricambiasse la visita di Elizabeth Martin. Che seguito bisognasse dare a quella visita, che cosa fosse necessario e che cosa più prudente fare, era stato oggetto di qualche perplessità. Ignorare completamente chi la invitava, la madre e le sorelle di Martin, sarebbe stata ingratitudine. Non lo si doveva fare. Ma e il pericolo che la simpatia si rinnovasse? Dopo molto riflettere, Emma non riuscì a trovare di meglio che farle scambiare la visita, in modo tuttavia che se avevano un briciolo di comprendonio si convincessero che tutto doveva ormai ridursi a semplici rapporti di cortesia. Il progetto era di condurla nella sua carrozza, lasciarla ad Abbey Mill mentre lei proseguiva un altro po' e venirla a riprendere in tempo per sventare insidiose richieste o pericolosi richiami al passato e fornire la prova più decisa del grado di intimità scelto per il futuro. Di meglio non le venne in mente. E sebbene vi fosse in tutto ciò qualcosa che il cuore di Emma non poteva approvare, un che di ingratitudine appena appena verniciata, così bisognava agire. O che cosa ne sarebbe stato di Harriet? Poca voglia aveva Harriet di fare visite. Solo mezz'ora prima che l'amica arrivasse a casa della signora Goddard, la cattiva Stella l'aveva condotta proprio là dove poteva vedersi un baule indirizzato al reverendo Philip Elton White Hart Bath, nell'atto d'essere sistemato sul carro del beccaio che doveva trasportarlo al posteggio delle diligenze. Talché, qualunque cosa al mondo non fosse il baule e l'indirizzo, aveva cessato di esistere. Andò, tuttavia. E quando raggiunsero la fattoria e si stava per metterla a terra in fondo al viale largo e accuratamente disseminato di ghiaia che portava fra meli a spalliera al portone d'ingresso, la vista di tutto ciò che l'autunno prima le aveva dato tanto piacere minacciò di ravvivare un po' di agitazione locale. E quando si separarono, Emma la vide guardarsi attorno con una specie di curiosità spaurita che le consigliò di non permettere alla visita di superare il progettato quarto d'ora. Per dedicare quest'intervallo a una vecchia domestica che s'era sposata stabilendosi a Donwell, Emma proseguì. Il quarto d'ora la riportò puntualmente al cancello bianco e, chiamata la signorina Smith, fu subito con lei, non accompagnata da nessun allarmante giovanotto. Harriet non poté fornire molto presto un resoconto intelligibile dei fatti. Era troppo emozionata. Ma infine Emma ne raccolse abbastanza per capire che sorta d'incontro fosse stato e che sorta di pena recasse. Non aveva visto che la signora Martin e le due signorine. Queste l'avevano ricevuta con fare impacciato, se non freddo. E per quasi tutto il tempo non s'era parlato d'altro che di semplici luoghi comuni, finché, quasi all'ultimo, l'improvvisa dichiarazione della signora Martin che la signorina Smith le sembrava cresciuta aveva introdotto un più interessante argomento e modi più cordiali. Proprio lì, in quella stanza, nel settembre scorso, l'avevano misurata insieme le due amiche. E sullo zoccolo di legno accanto alla finestra c'erano segni e annotazioni a matita. Era stato lui a farli. E tutte sembravano ricordare il giorno, l'ora, i presenti, l'occasione. E provare gli stessi sentimenti, gli stessi rimpianti, e desiderare il ritorno alla stessa intimità. E già stavano ridivenendo quelle di prima. E Harriet, come Emma, non poté non sospettare, pronta ad essere cordiale e felice come la più cordiale e felice di loro, quando era ricomparsa la carrozza e tutto era finito. Si sentì allora che lo stile della visita e la sua brevità non consentivano dubbi. Dedicare 14 minuti a coloro dalle quali neppure 6 mesi prima aveva passato 6 settimane felici. Tutto questo Emma poteva ben raffigurarselo e sentire come loro avessero ragione di restarci male e come fosse naturale che Harriet ne soffrisse. Era un brutto affare. Avrebbe dato o sopportato qualunque cosa perché i Martin occupassero nella gerarchia sociale un gradino più alto. Erano persone così degne che un po' più su sarebbe bastato. Ma stando le cose come stavano, come poteva far diverso? Impossibile. Non aveva nulla da rimproverarsi. Bisognava tenerli separati. Ma era un processo estremamente doloroso. Tanto doloroso per lei in quel momento che presto sentì la necessità di un po' di conforto e decise per ottenerlo di rincasare da Randalls. La sua mente era stanca di arrovellarsi su Elton e sui Martin. Il bagno d'aria pura di Randalls era assolutamente indispensabile. «Non so da quando mi va tutto così male», esclamò Emma. e si abbandonò nell'angolo della carrozza per indulgere ai suoi brontolii o cacciarli ragionando, forse un po' tutte e due le cose, giacché tale è il più comune meccanismo di un'anima non maldisposta. D'un tratto la carrozza si fermò ed Emma alzò gli occhi. L'avevano fermata Mr. e Mrs. Weston, che ora le erano accanto e le parlavano. Ci fu immediato piacere nel loro sguardo e piacere anche più grande nel suono della voce, poiché il signor Weston le si rivolse con un «Come sta? Come sta? Siamo rimasti a lungo in compagnia di suo padre, lieti di trovarlo così bene. Frank arriva domani. Ho ricevuto stamattina una sua lettera. Lo aspettiamo immancabilmente domani all'ora di pranzo. Oggi è ad Oxford. Si tratterrà 2 settimane». Lo sapevo che sarebbe andata così. Se fosse venuto a Natale non si sarebbe potuto fermare che 3 giorni. Sono sempre stato lieto che non venisse a Natale. Ora avremo giusto il tempo che fa per lui. Bello, asciutto, stabile. Ce lo godremo in pieno. Ogni cosa è andata esattamente come potevamo desiderare. A una notizia come quella era impossibile resistere. Come era impossibile sfuggire all'influenza di un volto raggiante come quello del signor Weston, confermato com'era tutto ciò dalle parole più scarse e dal contegno più calmo, ma entrambi non meno efficaci, della moglie. Sapere che lei considerava sicuro il suo arrivo bastava a farlo ritenere tale anche ad Emma, ed essa gioì sinceramente della loro gioia. Fu un delizioso rianimarsi dello spirito esausto. Il logoro passato fu sepolto dalla novità di quanto stava per venire, e nella rapidità di un pensiero di mezzo minuto Emma sperò che del reverendo Elton non si parlasse più. Il signor Weston rifece la storia degli impegni a Enscombe che permettevano a suo figlio di disporre di 2 settimane intere ed illustrò la via che avrebbe percorso e il metodo che avrebbe seguito nel viaggio. Ed Emma ascoltò, sorrise, si rallegrò. «Lo condurrò presto ad Hartfield», disse lui concludendo. Emma poté credere di vedere sua moglie toccargli il braccio a questa frase. «Faremmo meglio a incamminarci», disse lei. «Stiamo rubando tempo alle signorine». «Bene, bene, eccomi pronto», e volgendosi ad Emma. «Ma non deve aspettarsi chissà che bel giovanotto. Non ha avuto che la mia descrizione e oso dire che non è proprio nulla di speciale». Sebbene dai suoi occhi lucenti parlasse una ben diversa convinzione. Emma seppe prendere un'aria perfettamente astratta e innocente e rispondere in modo che non impegnava nulla. «Pensa a me domani verso le 4, cara Emma!» Fu la preghiera pronunciata con una certa ansia e diretta solo a lei, con la quale la signora Weston si accomiatò. «Alle 4? Puoi contare che sia qui alle 3. Fu la pronta rettifica del signor Weston, e così ebbe termine un incontro quanto mai edificante. L'umore di Emma aveva ripreso quota. Era quasi felice. Tutto aveva un altro aspetto ora. La mattina del fausto giorno arrivò, e la fedele pupilla della signora Weston non dimenticò né alle 10, né alle 11, né alle 12, che alle 4 doveva pensare a lei. «Mia cara, cara e trepidante amica», disse Emma in muto soliloquio mentre scendeva dalla sua stanza, «sempre ansiosa del benessere altrui anziché del proprio. Ti vedo ora assorta nelle tue piccole cure solerti, andare e venire nella stanza di Frank per assicurarti che tutto sia a posto». L'orologio batté le 12 mentre attraversava il vestibolo. «Le 12! Non dimenticherò di pensare a te fra 4 ore. E domani a quest'ora, forse, o un po' più tardi, penserò alla possibilità che vengano tutti qui. Sono certa che non tarderanno a condurlo». Aprì la porta del salotto e vide 2 signori seduti con suo padre, Mr. Weston e il figlio. Erano lì da pochi minuti. E il signor Weston aveva appena finito di spiegare come Frank avesse anticipato di un giorno l'arrivo e il padre di lei era ancora nel bel mezzo delle sue compitissime manifestazioni di benvenuto e rallegramento, quando ella apparve a rivendicare la sua parte di sorpresa, presentazione e piacere. Il Frank Churchill di cui si era tanto parlato e che tanto interesse sollevava, le era davanti in carne ed ossa. Le fu presentato e a Emma non parve che si fosse detto troppo a sua lode. Era un giovane molto avvenente. Statura, aria, modo di fare, tutto era irreprensibile. E l'aspetto tradiva molto dello spirito e della vivacità del padre. Sembrava sveglio e sensato. Emma ebbe subito l'impressione che le sarebbe piaciuto. E la garbata scioltezza dei suoi modi e una naturale loquacità la convinsero che veniva con l'intenzione di stringere amicizia con lei e che amici dovevano presto diventare. Era arrivato a Randalls la sera prima e l'ansia di raggiungere la meta, che lo aveva indotto a cambiare programma e mettersi in viaggio di buon mattino, far tappa ad ora tarda e procedere più spedito in modo da guadagnare mezza giornata, piacque ad Emma. «L'avevo detto ieri!» esclamò esultante il signor Weston. «L'avevo detto che sarebbe stato qui prima del tempo stabilito. Ricordavo quello che anch'io ero solito fare. Non si può viaggiare a passo di lumaca, non si può fare a meno di andare più in fretta del previsto. E il piacere di arrivare d'improvviso da un amico, prima che cominci l'ora di montare la guardia, vale tutti i piccoli sforzi che richiede. Sì, è un gran piacere quando ce lo si può permettere», disse il giovanotto, «sebbene le case con le quali mi prenderei tanta libertà non siano molte. Ma qui si trattava di casa propria e sentivo che tutto mi era concesso». Le parole «casa propria» ebbero per effetto che il padre lo guardò con rinnovato compiacimento. Emma si convinse subito che Frank conosceva il modo di rendersi gradito e tale convinzione fu rafforzata da quanto seguì. Randalls gli andava molto a genio, ne giudicava mirabile la disposizione, non voleva concedere che fosse eccessivamente piccola, ammirava il posto, la via per Highbury, la stessa Highbury, e Hartfield ancora più. E dichiarò di aver sempre avuto per quella terra il genere di interesse che solo la propria terra ispira e la più viva curiosità di conoscerla. L'idea che fino allora non aveva trovato modo di soddisfare un desiderio così gentile attraversò sospettosa il cervello di Emma. Ma se falsità era, era una piacevole falsità e piacevole il modo di presentarla. Le sue maniere non sapevano né di artificio né di esagerazione. Parlava davvero in uno stato di non comune godimento e aveva tutta l'aria di provarlo. Gli argomenti furono, in generale, quelli che a una prima conoscenza si addicono. Seppe trovare modo, mentre i due genitori si intrattenevano insieme, di introdurre nel discorso la matrigna e di parlarne con lodi tanto generose, con ammirazione così calda, con una gratitudine così profonda per la felicità che assicurava suo padre e per la gentilezza con la quale aveva ricevuto lui, da fornire un'altra prova che conosceva l'arte di piacere e riteneva valesse la pena cercar di piacerle. Non azzardò una parola d'elogio più di quel che sapeva pienamente meritato dalla signora Weston, ma indubbiamente in proposito non poteva saperne che pochissimo. Intuiva che cosa sarebbe riuscito bene accetto. Di poco più poteva essere sicuro. Il matrimonio di suo padre disse che era stato una decisione molto seria. Ogni amico doveva rallegrarsene e la famiglia dalla quale una simile benedizione gli era venuta doveva ritenersi quella verso la quale aveva contratto maggiori obblighi di riconoscenza. Si spinse il più possibile fino a ringraziarla delle benemerenze di Miss Taylor, pur senza dar l'impressione di dimenticare che, come in genere accade, era da supporre fosse stata Miss Taylor a formare il carattere di Miss Woodhouse, piuttosto che questa il carattere di quella. E infine, come deciso a confermare la propria opinione girando tutto intorno al suo soggetto, concluse con parole di ammirato stupore sulla giovinezza e leggiadria della sua persona. «A modi eleganti e gradevoli ero preparato», disse, «ma confesso che tutto ben considerato, non mi attendevo più di una donna appena appena piacente e di una certa età. Non sapevo che avrei trovato in Mrs. Weston una donna giovane e bella». Per i sentimenti che nutro nei suoi riguardi, in Mrs. Weston lei non vedrà mai troppe perfezioni. Non lasci il sospetto di averne parlato come di donna giovane e bella, disse Emma. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.